9 in punto. La politica nel tunnel. Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Dichiariamolo subito, così evitate semmai di chiamare l'800 24 0024 e non vi risponde nessuno. Quella di oggi è una puntata registrata, una puntata, quella del 25 aprile, che abbiamo deciso di dedicare alla resistenza e magari alle prospettive di liberazione, ma resistenza non in senso storico nella fattispecie, non faremo un excursus storico, non racconteremo che cosa è successo in quei giorni del 1945. Parleremo di un altro tipo di resistenza, un tipo di resistenza che si svolge quotidianamente. Oddio, a dire il vero ne parliamo quasi sempre da questi microfoni, è la resistenza di lavoratori e imprese ad una crisi che ci sta schiacciando. Però parliamo di un'altra resistenza, la resistenza alla criminalità organizzata, che si compone di tanti piccoli gesti quotidiani e di tante piccole storie quotidiane, piccole o grandi storie quotidiane. Ne parliamo innanzitutto con Giovanni Tizian. Buongiorno. Buongiorno a voi. È giornalista del gruppo L'Espresso, autore del libro La nostra guerra non è mai finita. Una storia particolare, quella di Giovanni Tizian, forse da qualche parte l'avrete Gialletta, tra poco ci torneremo. Saluto anche la mia collega, la collega di Radio 24, Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Simone, a te, nostro ascoltatore. In studio con noi, che si occupa più o meno quotidianamente di questi temi e ci aiuterà, insomma, a comporre questa puntata. Allora, iniziamo da Giovanni Tizian. Giovanni, la tua è una storia molto particolare che hai deciso di raccontare in questo libro, La nostra guerra non è mai finita, edito da Mondadori. Un bel libro, un racconto giornalistico che sostanzialmente però parla di te stesso. Da un anno e mezzo sei sotto scorta e tuo padre fu ucciso dall''ndrangheta e tu sei sotto scorta perché sono uomini dell''ndrangheta che ti hanno minacciato. Iniziamo, ti chiederei di iniziare da tuo padre, perché è da là in realtà che nasce tutto, no? Dalla voglia di trovare la verità su tuo padre. È proprio la verità negata sull'omicidio di mio padre mi ha spinto poi a ricercare altre verità, altre storie anche di tante vittime che sono state completamente dimenticate in questo paese, e molte delle quali sono in Calabria, uccise dall''ndrangheta, i loro familiari continuano a chiedere giustizia. Quindi la storia di mio padre è questo, è un concentrato di ingiustizia e di verità negata, di una giustizia che non è riuscita a garantire un diritto essenziale in questo paese, che è quello di sapere e di conoscere i volti degli assassini di una persona cara. E parte da qui il mio percorso, e poi è la partenza, l'inizio anche del libro, perché avevo il bisogno di raccontarlo, ma soprattutto di raccontare anche a me stesso quel passato che per troppo tempo ho tenuto distante, un po' perché il dolore era tanto, è stata una sofferenza enorme perdere il padre a 7 anni, quindi la prima cosa che fai è tentare di ricominciare senza pensare. Il problema è che poi il dolore e la rabbia tornano a galla, e quindi, come dire, dovevo farlo dopo aver ripreso in mano il fascicolo nel 2006. Insomma, ho visto quelle foto, ho visto il volto di mio padre sfigurato, il corpo di mio padre sfigurato dai pallettoni della Lupara, e da quel momento ho deciso che era arrivato il momento di capire e di non abbandonare più quella memoria che fa parte del mio patrimonio culturale. E hai deciso alla fine di fare questo mestieraccio, un mestieraccio troppe volte denigrato, del quale troppe volte si parla male, ma è un mestieraccio che comporta, e parliamo di quello di giornalista, non per tutti, ma per molti, pochi euro pagati a pezzo, una grande fatica, un lavoro d'inchiesta, e che porta alcuni giornalisti come te ad essere costretti a vivere sotto scorta, cosa che avviene da un anno e mezzo. Questo è avvenuto scavando nelle pieghe di una realtà che non è la tua originaria, cioè non è Bovalino in Calabria, ma è il modenese. Che cosa hai trovato, che cosa hai scoperto analizzando alla luce appunto della presenza della criminalità organizzata, della presenza dell'Andrangheta in quelle zone nelle quali vi siete trasferiti dopo l'omicidio di tuo padre? Una premessa: io inizio a scrivere, a collaborare per la Gazzetta di Modena nel 2006 e chiaramente all'inizio non mi occupo subito di mafia, perché chiaramente, insomma, come tutte le gavette, come tutti gli inizi, ti occupi un po' di tutto da cronista. Ad un certo punto però comincio a interessarmi dell'argomento, comincio a interessarmi, voglio capire come mai certi fatti, certe logiche che conoscevo bene perché venivo e vengo da una regione, la Calabria, e da una zona, la Locride, dove quella era la quotidianità, si ripropongono sul territorio modenese e insomma in generale dell'Emilia-Romagna. Allora cominciamo con il mio caposervizio a interrogarci su questi fatti inquietanti: incendi, minacce, intimidazioni a imprenditori, vecchi boss che erano lì in soggiorno obbligato e che continuavano a stare lì una volta scontata la pena. Quindi mettiamo assieme un po' di materiale, un po' di storie anche passate che però non erano mai state raccontate, e scopriamo che l'Emilia Romagna e Modena sono luoghi in cui da una parte il clan dei Casalesi, quindi la Camorra, dall'altra l'Andrangheta si erano, insomma, spartiti un territorio. E attenzione, non si erano spartiti facendosi la guerra, ma collaborando, stabilendo quelle che io chiamo dei modelli di alleanze flessibili, cioè in base all'affare da concludere si stabilivano accordi e alleanze. E quindi sfatiamo anche un altro mito, che è quello che Modena era solo terra di clan dei Casalesi. Invece scopriamo che le cosche, le ndrine della piana di Gioia Tauro a Modena dagli anni 70 erano ben radicate e stavano portando avanti i propri affari, quindi i soliti affari che fanno al nord, Movimento Terra, oltre che cocaina. E quindi cominciamo a raccontare tutta questa realtà sommersa, una realtà sommersa che ancora oggi le istituzioni, l'imprenditoria e i professionisti faticano a comprendere. Sì, c'è da questo punto di vista, mi si consenta di mutuare un'espressione diventata nobile, una sorta di muro di gomma, nel senso che sia le istituzioni ma anche gli stessi cittadini faticano a dire, in una forma di omertà che non è la forma di omertà classica, ma anche qua una sorta di resistenza, se vogliamo, faticano ad ammettere che nel proprio territorio, che consideravano una sorta di Eden, un luogo felice nel quale si viveva tranquilli grazie agli splendidi servizi offerti dalle amministrazioni, alla tranquillità dei luoghi, insomma, si fatica ad ammettere che la criminalità organizzata possa infiltrarsi, no? È così un po', Giovanni? È esattamente così, anche ancora oggi, perché io questo da quando ho cominciato a fare il cronista, quindi subito il giorno degli arresti, un esempio, il giorno degli arresti, tanti annunci, plauso alle forze dell'ordine e quant'altro, poi scatta la giustificazione a tutto questo da parte della politica. Comunque l'importante, abbiamo dimostrato anche questa volta di avere gli anticorpi, i famosi anticorpi di questa regione e i famosi anticorpi di questa politica, insomma, di sindaci, assessori e così via. Io ripeto sempre, insomma, non sono più adatti questi anticorpi alla mafia moderna di oggi, cioè potevano andare bene per un tempo quando il mafioso era solo violenza ed era solo minaccia, quando era con la coppola e la lupara. Oggi tutto questo non c'è, quindi il mafioso, proponendosi come un imprenditore e offrendo, o meglio, proponendosi con un'offerta economica, quindi non con la minaccia di importi il pizzo, e tutto questo non è, come dire, non è respinto da nessun anticorpo, proprio perché si inserisce in una logica economica. E quindi questa Eden, questa culla dei diritti, perché è vero, per lungo tempo l'Emilia Romagna è stata la culla dei diritti, del sistema cooperativo che riusciva a garantire non solo la corsa al guadagno, ma soprattutto riusciva a legare il profitto alla tutela dei diritti dei lavoratori. Tutto questo oggi si sta perdendo, e abbiamo così anche cooperative, oltre che imprese, oltre che politici, che dialogano con gli insospettabili delle organizzazioni mafiose, dialogano con i loro faccendieri, a volte dialogano addirittura con i boss in persona, chi per recuperare qualche voto in più, chi per avere un servizio a basso costo e chi per appunto prendere queste aziende legate ai clan nei loro cantieri pubblici. Adesso torneremo da te, Giovanni, perché poi voglio farmi raccontare anche un po', anche per dare la misura, ripeto, a chi i giornalisti li attacca sempre, li mette tutti in uno stesso fascio d'erba. Voglio farmi raccontare un po' da te la vita sotto scorta e com'è questa vita sotto scorta che tu vivi da un anno e mezzo. Abbiamo ospitato Roberto Saviano qualche settimana fa, gli abbiamo chiesto a domanda proprio brutale: ma tu lo rifaresti, riscriveresti quello che hai scritto? Lui ci ha detto no, probabilmente non lo farei, perché è una vita difficile, dura e faticosa e che ti nega molte cose. Però su questo torneremo tra poco, e torneremo a come sei arrivato ad essere sotto scorta. Però io con Raffaella Calandra, visto che Giovanni Tizian ha dato lo spunto parlando della situazione nel modenese, ti virerei la domanda, e anche su questo torneremo più avanti, avremo altri ospiti, su quello che riguarda la Lombardia. Tu molto spesso te ne sei occupata di queste cose, delle inchieste che riguardano la Lombardia e la penetrazione soprattutto dell''ndrangheta nella cintura del milanese. Anche qua c'è un po' di resistenza ad ammettere. Beh, direi che a questo punto è anche ormai nessuno più può dire che nessuno più può mettere in dubbio che l''ndrangheta ci sia. C'è stata una fase in cui, soprattutto nel momento in cui le inchieste sono ricominciate, che c'è stato disorientamento, ed è rimasta famosa, diciamo, la definizione, quella battuta che dice l'allora prefetto di Milano: la mafia non esiste. Quello stadio lì, ecco, anche a Milano, anche in Lombardia, ormai nessuno più può consentirselo, perché i numeri e l'evidenza delle inchieste hanno dimostrato come non solo sia infiltrata, ma anzi la Lombardia sia una colonna portante della struttura 'ndranghetista, e anzi ci sia una struttura presente e stabile, hanno detto più volte i magistrati che hanno coordinato le inchieste sulla Lombardia. Quindi la fase della rimozione, perché c'erano stati anche già in passato molte inchieste importanti su fatti molto gravi di presenza mafiosa e in particolare dell''ndrangheta in Lombardia. Negli anni 80 e 90 ci sono stati molti arresti, ci sono stati dei delitti, ci sono state delle inchieste importanti anche riguardanti fatti gravi come i sequestri, però c'era stata poi allo stesso tempo una forma di rimozione, perché a un certo punto poi non si sparava più, perché a un certo punto l''ndrangheta era entrata così tanto anche nel tessuto sociale, economico e politico, come abbiamo visto anche nelle ultime inchieste, che tutto questo è passato sotto silenzio. Da qui anche quel risveglio brutale che in una mattina di luglio l'inchiesta coordinata tra Reggio Calabria e Milano ha portato a Milano, con quei 300 arresti in tutta Italia, che è sembrata un po' la doccia fredda che ha fatto ricordare a Milano quanto negli anni abbia covato la presenza di questi boss, di questi clan, fino a farla nutrire del suo stesso sangue, diciamo, economico e produttivo. Proprio a proposito di questo, Raffaella, io saluto Antonio Calabrò, che è un collega giornalista, ma che è qua in veste di consigliere incaricato di Assolombarda per la legalità, la cultura e anche la responsabilità sociale d'impresa. Antonio, mi sbaglio? Esattamente così, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno, siamo qua al tema della penetrazione economica della criminalità organizzata e in specie dell''ndrangheta. Noi raccontiamo quotidianamente da questi microfoni quanto le imprese stiano soffrendo, quanto abbiano difficoltà a reperire denaro tramite i metodi tradizionali e quindi le banche, eventuali venture capitalist o cose di questo genere. In questi meccanismi, Antonio, si innesta inevitabilmente la criminalità organizzata, perché in una fase di scarsa liquidità chi la liquidità ce l'ha sono esattamente loro. È così? Esattamente. Vecchia storia questa della presenza mafiosa prima, poi camorrista e poi l''ndrangheta all'interno del tessuto economico milanese e lombardo e più in generale del tessuto economico del nord. C'è una straordinaria disponibilità di liquidità che viene a incrociare un problema di rarefazione della disponibilità finanziaria da parte delle istituzioni di credito tradizionali. Insomma, arriva qualcuno con dei soldi in mano, va dal piccolo imprenditore al piccolo commerciante, finanzia all'inizio magari assumendo una partecipazione e poi rubando l'azienda. Quello che è certo è che siamo in presenza di un gravissimo pericolo di stravolgimento del tessuto economico e imprenditoriale milanese e lombardo, proprio per la insidiosità di una presenza del genere. Presenza che si giova della disattenzione delle istituzioni politiche e delle istituzioni amministrative. La mafia ha prosperato e talvolta, con la compiacenza, direi. E talvolta anche con la compiacenza di imprenditori che in modo molto sbrigativo prendono i soldi lì dove ci sono. Noi ci fermiamo, abbiamo una breve pausa e poi ritornerei da Antonio Calabro proprio perché voglio farmi raccontare da lui che cosa state mettendo in piedi e che cosa avete messo in piedi per evitare che questo avvenga, ammesso che si riesca ad evitare. A tra poco. 9 in punto. La politica nel tunnel. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con Giovanni Tizian, giornalista del gruppo L'Espresso, autore del libro La nostra guerra non è mai finita, la nostra Raffaella Calandra, Antonio Calabro. Tra poco ci raggiungeranno anche altri ospiti. Antonio, io vorrei capire che cosa state cercando di fare e che cosa riuscite a fare in una situazione come questa. Innanzitutto la prima iniziativa di Assolombarda è quella di intervenire sul tema della legalità con un protocollo di legalità abbastanza stringente, abbastanza importante, che faccia da vincolo e da stimolo per le imprese. Va insomma diffusa la consapevolezza che la criminalità organizzata, la mafia, la camorra e l''ndrangheta sono soggetti non soltanto criminali in senso tradizionale, ma soggetti che pongono il mercato in condizioni assolutamente disagevoli rispetto alle altre imprese per bene, insomma dei concorrenti inopportuni e illegali, uno stravolgimento reale dell'economia, quindi diffusione della cultura della legalità innanzitutto. Secondo, la formazione di una serie di manager, un corso già avviato e concluso, che gestiscano, che siano a disposizione dei tribunali per gestire le imprese sequestrate e confiscate alla mafia, per dimostrare insomma che la presenza mafiosa distrugge l'economia e una buona gestione rimette sul mercato i beni che sono stati confiscati e sequestrati. È un corso che abbiamo avviato lo scorso anno con l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, con la DAI, cioè con i dirigenti dell'azienda Lombardi, con Fondirigenti che ha usato la formazione, con l'Istud, con la Luisa e con la Bocconi, quindi dei soggetti sociali abbastanza diffusi sul territorio, e che ha portato 63 manager a sapere e capire come governare quelle aziende molto particolari, sono quelle confiscate. Questo è il quadro delle vostre iniziative. Ti chiedo di rimanere ancora qualche minuto con noi, se vuoi e se puoi, Antonio. E tornerei nel frattempo a Giovanni Tizian per tornare alla storia, che ripeto, insomma, il principio dal quale siamo partiti è che oggi, 25 aprile, vogliamo parlare di resistenza, nella fattispecie di resistenza alla criminalità organizzata. Io vorrei capire, Giovanni, come è stato il momento nel quale ti hanno detto che ti avrebbero messo sotto scorta, e come si vive sotto scorta? Il 22 dicembre 2011 rispondo a una telefonata questa telefonata era la comunicazione di, della protezione, cioè da quel giorno avrei avuto insomma una scorta che mi accompagna tuttora. Come si vive? Si vive a metà, si vive, non si è più indipendenti, quindi per ogni spostamento, per ogni movimento devi sempre comunicarlo, quindi capiamo che è un po' limita anche e soprattutto il mestiere del giornalista, perché insomma ero abituato a muovermi abbastanza in maniera molto agile, anche da un giorno all'altro, per incontrare le fonti, per incontrare, insomma, per andare a cercare notizie. Oggi tutto questo continuo a farlo per quanto è possibile, perché questo è il mio mestiere, ma lo faccio in maniera più ragionata, più coordinandomi con chi mi tutela. Quindi l'altro aspetto, che forse è quello che mi provoca più sofferenza, è il vedere le persone che ti vogliono bene soffrire per una tua scelta. E la cosa assurda è che non hai fatto niente di male, non è colpa tua, perché è colpa appunto sempre dei mafiosi, degli 'ndranghetisti in questo caso. Chi è che ti vuole ammazzare, Giovanni? Ma la questione risale ad un... a degli articoli, a delle inchieste che ho fatto per la Gazzetta di Modena, scritta una nel 2010, un'inchiesta sul gioco legale controllato dai clan, in cui nominavo per la prima volta a Modena e in Emilia Romagna, perché il suo nome non era mai stato fatto, Nicola Femia, detto Rocco, un boss della cosca Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, passato da narcotrafficante, più volte arrestato, con una condanna in appello a 23 anni, eppure diventato un importantissimo imprenditore del gioco legale. Cioè lui affitta, noleggia le macchinette, le slot, e in più vende le postazioni e le ricariche per giocare al poker online. Per la prima volta nel 2010. Lui legge invece nel 2011, 17 dicembre 2011, legge un altro articolo sulla Gazzetta di Modena dove si parla di lui. Questa volta lo metto in collegamento con la cosca che la collega Raffaella Calandra conosce bene, nel senso che è quella che domina Milano, cioè i Valle Lampada, e personaggi di spicco dell'andrangheta lombarda e regina, legata alla potente cosca Condello di Reggio Calabria. Ecco, lì lui sbotta, nel senso che la telefonata intercettata è questo: per la seconda volta mi ha rotto la testa. Ti fermo perché mi dicono che probabilmente ce l'abbiamo, tra l'altro, quell'audio, e insomma lo vogliamo far sentire. Sentiamo. Come si chiama il giornale? È la Gazzetta di Modena. Ti penso io. È praticamente di sabato. Un attimo. E poi ti dirò, no, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando, e ti dirò chi è questo giornalista, se ci arriviamo o la smetto gli sparo in bocca, finita lì, perché è una persona che mi sta dando una mano. Questo qui è uno che gli stai sul culo e... secondo me non è lui, è qualcuno che glielo vuole dire, capito? È certo, ma non è lui. Parlavano praticamente di un'operazione praticamente di uno che hanno fatto un sequestro di bene, che è uno settore di Catania. Dopo è uscito che era collegato a uno di Grasso di Napoli 2G, un altro che aveva 12 una macchina. Aspetta. E dopo parla di me e dice: non ci scordiamo che nel settore dei giochi c'è un altro esponente dall'andrangheta, così. Vedi che glielo faccio andare in bocca. Ti spiego, sappi una cosa, che ci sono due poteri oggi in Italia. La magistratura e i giornali. Lo so, il giornale è peggio della magistratura. Questa è la telefonata, Giovanni, no? I giornali sono peggio della magistratura. Qui riflettere che però dà anche l'idea della potenza e dell'importanza poi di continuare a fare un certo tipo di mestiere. Allora alla fine ai mafiosi dà più fastidio che il loro nome venga associato, che vengano svelati pubblicamente i loro affari, mentre riescono a gestire di più le indagini o anche le richieste di d'arresto dei giudici. Un aspetto interessante. Antonio Calabro, io ci divento matto al pensiero che uno con quei carichi penali possa tornare a fare legalmente l'imprenditore. Hai perfettamente ragione, la telefonata è molto impressionante, e dovrebbe suonare da allarme per tutti gli imprenditori che sottovalutano la presenza della mafia, dell'andrangheta, della criminalità organizzata al nord, come se le questioni mafiose fossero solo una cosa meridionale. Il tema è molto chiaro, ci sono delle presenze che sono arrivate qui nella disattenzione generale. Io ricordo inchieste molto belle fatte da Repubblica negli anni 80, alla fine degli anni 80, che dicevano esattamente dove era la mappa e degli insediamenti delle famiglie dell'andrangheta, e sono passate abbastanza sotto silenzio, purtroppo. Adesso la magistratura, l'informazione danno fastidio ai capi mafia. Io credo che l'impegno di una struttura come Asso Lombarda sia quella di fare sì che il fastidio si allarghi, che ci sia la prevalenza della logica, della cultura e delle regole del mercato. La mafia e il mercato sono assolutamente un'antinomia. Più mercato, più trasparenza, più merito, più attenzione significa anche un ostacolo forte. Vorremmo che gli imprenditori per bene fossero un grande fastidio per i capi mafiosi, espellendo dal territorio dell'economia i capi mafia, i boss e i personaggi come quelli che abbiamo sentito in questa telefonata. Raffaella, ma quanti casi ci sono di questo genere? Perché, ripeto, a me impressiona molto, insomma, quello che ci raccontava Giovanni Tizian, dei carichi penali, appunto, delle condanne addirittura ricevute dal, no? Da questo boss che poi ritorna improvvisamente a fare l'imprenditore in maniera pulita. Si rifanno una vita, diciamo, la memoria purtroppo è molto corta in Italia, particolarmente, e quindi casomai in altri territori, in altre realtà, completamente si rifanno una vita anche nel settore dell'imprenditoria. Ma quello che forse è ancora più grave, perché questi sono casi un po' diciamo di vertice, insomma casi eclatanti di personaggi di così, con condanne così pesanti e così in primo piano investiti diciamo dai ruoli mafiosi, che poi tornano a svolgere anche legalmente alcune attività borderline come quelle dei giochi. Quello che io trovo ancora più grave è che ci siano, come ad esempio è emerso nell'inchiesta su un famoso call center qui del Milanese, degli imprenditori che decidano tuttora di potersi rivolgere a uomini dichiaratamente di alcune famiglie ndranghetiste, come era nel caso specifico di alcuni di questo caso, parliamo dell'azienda della Blue Call, che aveva in un momento anche di difficoltà, aveva pensato di potersi rivolgere appunto a uomini delle famiglie della piana di Gioia Tauro, pensando di poterli gestire in qualche modo. Invece velocemente si sono ritrovati estromessi dalla loro stessa azienda, e questo purtroppo è un errore che si ripete più volte e più spesso. Abbiamo avuto il caso dell'azienda delle costruzioni Perego, coinvolta nell'inchiesta Infinito, quella tra Reggio Calabria e Milano. Abbiamo avuto anche casi eclatanti come quella del nome che tutti conosciamo, la TNT, quella dei trasporti, laddove c'erano personaggi, non l'azienda in quanto tale, ma c'erano dipendenti, c'erano dei personaggi che erano legati ad un'altra famiglia dranghetista, che è quella dei Flacchi. Cioè l'errore di pensare di potersi portare dentro gente appartenente a quegli ambienti e poterli gestire è un errore che fanno purtroppo ancora in molti, e di cui i dranghetisti stessi sono consapevoli, tanto è vero che in una intercettazione loro stessi dicono: eppure se metteva su Google il nostro nome gli veniva fuori tutto il curriculum, ma diciamo così. Saluto Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, provincia di Reggio Calabria. Salve. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Adesso ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi parliamo anche con lei. Altro caso di resistenza. 9 in punto. La politica nel tunnel. Ed eccoci di nuovo, dunque, con Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, provincia di Reggio Calabria, alla quale chiediamo innanzitutto di raccontarci la sua storia. Anche il suo è un caso di resistenza, come si diceva prima della pausa. Sono sindaco di Monasterace dal 2006, rieletta nel 2011. Durante i primi 5 anni di amministrazione abbiamo avuto dei casi di aggressione a 2 assessori a cui sono state bruciate le macchine, e questo ha rappresentato uno spartiacque, un prendere coscienza di quello che accadeva sul territorio, veramente molto triste e difficile da comprendere. Dopodiché siamo andati avanti lo stesso, ci siamo ripresentati nel 2011 e con una lista di 5 donne e 4 giovani abbiamo vinto le elezioni. Ad un mese dall'insediamento mi è stata bruciata completamente la farmacia di cui sono titolare e che appartiene alla mia famiglia e noi abitiamo sopra. Ad un anno da questo avvenimento sono stati esplosi 4 colpi di pistola verso la mia macchina proprio sotto casa e uno di quei colpi ha di nuovo ricolpito la farmacia, la serranda della farmacia, ed è lì, non voglio più risistemarlo perché è una specie di tristissimo ricordo giorno dopo giorno. È un'esperienza, purtroppo l'aggressione ai sindaci dei piccoli comuni si va intensificando, è un'aggressione che non è più sopportabile e tollerabile, anche perché lei è sottoscorta sì, Lanzetta, io vivo naturalmente. Con la scorta dei carabinieri, che ringrazio per aver ridato un po' di tranquillità a quelle che sono le paure della mia famiglia e per la gentilezza e la comprensione con cui accompagnano le mie giornate. Quindi volevo rimarcare questo ringraziamento vero alle forze dell'ordine, ai carabinieri e alla prefettura di Reggio Calabria, perché da questo punto di vista lo Stato c'è. Ma cosa avete fatto per generare questa reazione da parte delle organizzazioni criminali, dell''ndrangheta? Da parte mia mi sento assolutamente un sindaco assolutamente normale, non sono nulla di eccezionale, svolgo con scienza e coscienza quella che è questa mia professione di questi anni, cercando di fare il bene comune, cercando di essere al di sopra delle parti, cercando in maniera spesso difficilissima di dare servizi ai cittadini in questi anni in cui i comuni sono estremamente poveri e su cui sono pesate tutte quante i tagli governativi degli ultimi anni, che sono tragici, direi, negli effetti di quella che è la politica amministrativa dei piccoli comuni. Quindi io presumo di essere una persona assolutamente normale che cerca di difendere assolutamente il bene del comune e il bene comune e basta. Giovanni Tizian, quindi in questo caso non è una battaglia contro l''ndrangheta, ma la sola sottrazione del potere che porta alla minaccia, no? Sì, l''ndrangheta, ma in generale le mafie vogliono il potere più che i soldi, vogliono controllare la vita delle persone, vogliono controllare l'economia, vogliono controllare la cultura. Finché non riusciremo a capire che, e questo la politica deve capirlo, il fenomeno mafioso è un fenomeno prima di tutto culturale ed economico prima che criminale, nel senso che si fonda e si rafforza con la cultura con la cultura mafiosa, della sopraffazione, della violenza, e poi si rafforza appunto con l'economia, cioè con tutti i traffici legali e illegali. Quindi e capiamo che tutto questo poi li rende veramente potenti e soprattutto gli permette di controllare la vita delle persone. Quando questo potere viene messo in pericolo, ecco che scatta il tradizionale classico metodo mafioso, quindi l'intimidazione e la minaccia. Però è il potere al centro di tutto, è il potere che alimenta la brutalità di queste organizzazioni. Allora, io saluto, siamo quasi in chiusura di questa puntata, Federico Caffiero De Rao, procuratore e capo di Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno. E cedo la parola alla mia collega Raffaella Calandra per, insomma, una o due domande, quelle che avremo per il tempo. Procuratore, io vorrei chiederle, sulla base di quello che stava già raccontando Giovanni Tizian e che prima anche il sindaco di Monasterace diceva, no? A proposito di resistenze, nelle terre delle mafie, le resistenze sono innanzitutto quelle, la vera attività rivoluzionaria è far applicare la regola, la legge, che per un sindaco può essere appunto quella di pretendere ad esempio il pagamento delle tasse, il pagamento di alcune imposte per i rifiuti, per l'acqua, per voi magistrati appunto far applicare la legge. Io, lei è appena arrivato a Reggio Calabria ma ha alle spalle una lunghissima esperienza di lotta alle mafie, in particolar modo alla Camorra dei Casalesi, dalla procura procura di Napoli. Io quello che vorrei chiederle è proprio questo. Da Napoli e poi ora da Reggio Calabria, secondo lei quanto in qualche modo anche lo spazio lasciato aperto dalla mancanza di servizi semplici in un'amministrazione come può essere quella di una città difficile come Napoli e come è anche in Reggio Calabria, che poi è stata anche commissariata, lascia ulteriori spazi di infiltrazioni alle mafie, cioè l'assenza della quotidianità dei servizi in qualche modo se non spinge più gente e lascia margine alle infiltrazioni mafiose? Io penso che la legalità sia un sistema fatto di anche di piccole cose. Partiamo per esempio dal quotidiano vivere, anche il comportamento del cittadino è qualcosa che si deve attenere alla regola e il comportamento del primo cittadino deve essere un comportamento specchiato. Ho sempre detto che non vi è un dovere di dare il proprio contributo nell'ambito di un comune come sindaco, ma chi copre un incarico di questo tipo debba essere il primo baluardo di legalità e quindi applicare la regola o verificare che la regola sia applicata, perché come lei diceva giustamente, nel momento in cui anche un'amministrazione si muove in modo disorganico, in modo incostante, rendendo difficile anche la fruizione dei servizi da parte del cittadino, si finisce per agevolare quella illegalità che si vanta di poter far pervenire al cittadino il servizio cui ha diritto, cioè il diritto non è più tale ma diventa un favore del potere. Il sistema va modificato. Come dire, procuratore, scusi se intervengo. Prego. E la interrompo, come dire che là dove lo Stato, il comune, l'amministrazione locale non riesce ad esserci, la criminalità organizzata vanta la capacità di poter svolgere un ruolo di sussidiarietà in sostanza rispetto allo Stato. Io sono più diretta, procuratore, lei è preoccupato per Napoli in questo momento? Guardi, io ora lavoro a Reggio Calabria e quindi mi occupo di Reggio Calabria. Napoli ha il suo procuratore, dei magistrati molto vaghi, c'è un territorio in cui ho operato molto e mi rendo conto delle grandi difficoltà che ci sono nel distretto. Non parlo solo di Napoli città, ma parlo di tutti gli altri territori in cui non solo la camorra si muove, ma ci sono una serie di illegalità che poi consentono alla camorra di prosperare e diffondersi. Procuratore, ne abbiamo parlato molto nel corso di questa trasmissione, lei non era in linea prima, però uno dei temi che abbiamo affrontato e che secondo me è centrale è quanto la crisi economica riesca ad aumentare l'impatto e la penetrazione della criminalità organizzata nello stesso sistema economico e nella società, vuoi per crisi di liquidità delle aziende, tanto per fare un esempio, vuoi per un ruolo, chiamiamolo di welfare, anche se in questo caso forse proprio così non si può dire, che la criminalità organizzata sente di poter svolgere in certi casi. Da questo punto di vista immagino che le preoccupazioni siano più forti, addirittura più forti che in passato. Certamente, la criminalità organizzata di matrice camorristica, mafioso, dranghetista, è una criminalità organizzata la cui più forte pericolosità è determinata dall'esistenza di strutture economiche. Oltre diciamo la struttura militare che caratterizza un'organizzazione di tipo mafioso, c'è appunto tutta quella imprenditoriale che è la più pericolosa. Essendomi occupato per anni del clan dei Casalesi, ho potuto rilevare come quel clan si muovesse attraverso un sistema imprenditoriale controllato dal clan, creato dal clan. se penso al calcestruzzo e a tutti gli altri inerti, cave, gli altri settori su cui la camorra aveva, quella camorra aveva il controllo, penso che l'economia in determinati momenti può subire ancor più gravemente il condizionamento e l'infiltrazione. Lei diceva giustamente, nei momenti di difficoltà economiche è più facile alla criminalità infiltrarsi e questo credo è il più grande pericolo, perché le organizzazioni criminali continuano ad avere forti introiti, continuano a lucrare non solo sulle attività criminali ma anche su quelle economiche apparentemente legali, che in realtà sono il frutto del riciclaggio, del reimpiego del denaro che proviene non solo da denaro ma da queste stesse attività. E quindi diciamo che la massa di liquidità che viene immessa sul mercato è tanto più pericolosa per l'economia in un momento come quello attuale, in cui invece le attività economiche portate avanti con il metodo dell'osservanza delle leggi oggi sono fortemente in crisi. E allora ci troviamo da un lato un'economia legale che è condizionata per il reimpiego del denaro che proviene dalla criminalità organizzata e dall'altro un'economia che vuole continuare a svilupparsi, ma d'altro canto si trova in un momento di difficoltà generale. Ecco, in un momento come questo a noi compete, a noi dico magistratura, forze dell'ordine, intercettare flussi di denaro. Chiudiamo qua dunque, ringrazio Giovanni Tizian, giornalista del gruppo L'Espresso, autore del libro La nostra guerra non è mai finita, andatevelo a comprare e a leggere, edito da Mondadori. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per essere stata con noi e averci accompagnato nel corso di questa puntata, grazie a Federico Cafiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, provincia di Reggio Calabria, un'altra donna, un'altra persona che resiste, e ad Antonio Calabrò, consigliere incaricato di Asso Lombarda con delega alla responsabilità sociale di impresa, cultura e legalità. Gianmarco Ferronato in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani in diretta al Festival del Giornalismo di Perugia. Ricordati! Mancano 66 giorni all'aumento dell'IVA.